Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. La politica sempre più nel tunnel. Pierluigi Bersani dice ancora no ad un governissimo. Tra 10 giorni si inizia a votare per il nuovo capo dello Stato, ma la situazione politica non si sblocca. Di questo parleremo tra poco. Invece andiamo subito ad ascoltare quello che accade nel Movimento 5 Stelle, che minaccia di occupare le aule di Palazzo Madama e di Montecitorio. Sentiamo cosa ha detto la capogruppo a Montecitorio, Roberta Lombardi. È una presa di posizione comoda, nel senso nulla osta né a livello costituzionale né a livello regolamentare alla partenza dei lavori delle commissioni e quindi del Parlamento. È una presa di posizione politica perché non vogliono far funzionare il Parlamento. L'azione che le posso confermare già da adesso è rimanere in aula domani dopo la fine dei lavori, noi deputati e anche i senatori, a leggere passi della Costituzione e del Regolamento proprio per ridare centralità a quelle che sono le regole del Paese. Dopodiché altre ne concorderemo in questa giornata e verranno annunciate in conferenza stampa oggi pomeriggio. Diciamo riappropriazione da parte dei cittadini del Parlamento, sì, questo sì. E qui abbiamo sentito Roberta Lombardi, ma in questo momento il Movimento 5 Stelle è riunito proprio a Palazzo Madama, dove ha indetto una conferenza stampa. La segue per noi Alessandra Schepisi. Alessandra, cosa sta succedendo? Elisabetta, la conferenza stampa deve cominciare da... Sono appena arrivati qui alla sala stampa del Senato i capogruppo Vito Crimi e Roberto Lombardi. Mi staremo a vedere se questa sarà una vera conferenza stampa o una semplice comunicazione. Verranno annunciate le mobilitazioni contro il mancato insediamento delle commissioni permanenti, commissioni necessarie, lo ricordiamo, affinché il lavoro del Parlamento possa... Il Movimento 5 Stelle ha annunciato, annuncerà probabilmente, ecco, un'occupazione delle commissioni, delle aule parlamentari, con la lettura degli articoli della Costituzione, questo, dei regolamenti parlamentari nelle aule delle commissioni occupate o direttamente in aula, se domani non verrà dato l'avvio ai lavori, se la conferenza dei capigruppo, non è che andrà all'avvio, come è probabile, a vedere commissioni, e quindi Alessandra, dove sei? Perché sembra che sei proprio dentro il tunnel di Palazzo Madama, non sentiamo quasi nulla, quindi la conferenza stampa, però, a quanto abbiamo capito, non è ancora iniziata, giusto? Non è ancora iniziata, ma sta iniziando proprio in questo momento. Sono nella sala Nasseria a Palazzo Madama. E non si sente assolutamente nulla, quindi molto scoperta. Ma sono entrati i Crimi e la Lombardi? Sì, i Crimi e la Lombardi sono entrati proprio in questo momento. Adesso dovrebbero prendere la parola proprio in questo momento, perché sono seduti, ci sono state le foto, e quindi adesso prenderanno la parola, annunceranno quali saranno queste iniziative di protesta contro il mancato parlamentari. Probabilmente ci sarà l'occupazione dal pomeriggio di domani fino alla mezzanotte di domani, con la lettura degli articoli della Costituzione all'interno delle aule parlamentari. Grazie ad Alessandra Schepisi, che seguirà per noi appunto la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle. Non tutti però sono d'accordo con l'occupazione delle aule parlamentari da parte del Movimento 5 Stelle. Sentiamo a questo proposito il parere del capogruppo di SEL alla Camera, Gennaro Migliore, che ha parlato su Sky. La proposta di insediare le commissioni, mi permetto di dire che in aula sono stato io il primo a farla e dopo di me è intervenuto l'onorevole Ficco. Detto questo, credo che alcune affermazioni sono un po' prive anche di conoscenza istituzionale. Primo, lo voglio ricordare rapidamente, c'è bisogno di un governo per quasi la totalità dei provvedimenti, però ce ne sono tanti che potrebbero far lavorare le commissioni. Quindi la mia proposta è stata quella di avviare le commissioni con il deputato anziano che potesse farle funzionare in una prima fase. Secondo, io sono non contrario, sono allucinato da alcune dichiarazioni che paventano addirittura come forma di protesta l'occupazione della Camera. Io questo non lo accetterò mai, perché sebbene sul punto di merito si può anche concordare, il rispetto per le istituzioni e l'atteggiamento che deve preservare anche rispetto all'identità delle istituzioni, le istituzioni stesse, per me è prioritario. Che cosa vuol dire occupare la Camera? Se c'è un atteggiamento nei limiti dei regolamenti parlamentari, compreso l'ostruzionismo, va bene, non c'è nessun problema, ma se si parla materialmente di occuparla, secondo me è un atto assolutamente inconcepibile. E ricordiamo che il Movimento 5 Stelle non sarà certo il primo partito ad occupare la Camera o il Senato, ma il capitolo principale è quello sul governo. Pierluigi Bersani non rinuncia alla linea dura, nessun governissimo, altrimenti arriveranno giorni peggiori. In una lettera a Repubblica Bersani ribadisce la necessità di un governo di cambiamento che può anche prescindere, dice, dalla sua persona. Ci sono se sarò utile. Un PD però che sembra sempre più diviso dopo l'apertura di Franceschini ad un patto con il PDL, e abbiamo chiesto proprio questo a Beppe Fioroni. È diviso il PD? Sentiamo. È il sogno di molti riuscire a spaccare il PD. Io credo che sia un errore se c'è qualcuno che lavora per spaccare il PD, come è un errore continuare a spaccare e dividere l'Italia. Il PD è monolitico sulla voglia di eleggere un capo dello Stato, espressione di una larga maggioranza che passi agli scrutini in cui è richiesto 2/3 del consenso dei grandi elettori, che diventa una pietra fondante su cui costruire una stagione nuova per la nostra Repubblica. Su questo il PD è unito e su questo il PD non si fanno scissioni. Mettere altri argomenti all'ordine del giorno quando si parla del capo dello Stato significa, secondo me, giocare solo a far destabilizzare un'impostazione che credo sia quella corretta. Bersani però ha detto questo ci porterebbe a una situazione addirittura peggiore, io se sono d'intralcio mi dimetto. Insomma, comunque il no di Bersani è netto. Che cosa ne pensa lei di questo no? Bersani ritiene che non si possa fare un governo politico, ritiene che si può con il PDL, ritiene che si possa con il PDL costruire una stagione di grandi riforme e cambiamenti che gli italiani si aspettano. Io credo che Bersani, come tutti noi, avverte anche l'interpello che ci viene da scene come quelle che abbiamo visto a Civitanova Marche, di un dramma e di un'emergenza sociale alle quali vanno date risposta. Io credo che la domanda che ciascuno di noi deve dare non è se fare un passo avanti o un passo indietro o ritenersi d'intralcio, ma credo che a noi spetta la responsabilità di dimostrare che la politica non è quella strana cosa per la quale e senza la quale tutto resta tale e quale, perché questo è il dramma che gli italiani oggi hanno di una politica che non decide e che non dà risposte. Io credo che Bersani sia consapevole che bisogna fare un governo che dia risposte e lavora per questo. Quindi col PDL non si può fare? Con il PDL c'ha un percorso. Io penso che intanto dobbiamo iniziare a fare il Presidente della Repubblica e poi penseremo al resto. Questo abbiamo sentito Beppe Fioroni. Dal PDL invece dicono che il tempo è scaduto, basta con gli psicodrammi all'interno del PD. Abbiamo sentito poco fa Daniele Capezzone proprio su quest'ennesimo rifiuto di Bersani. È letteralmente sconcertante il fatto che 43 giorni dopo il voto siamo ancora qui a dover fare l'interpretazione delle letterine che Bersani invia a un quotidiano, che sono lettere di chiusura e addirittura di ammonimento contro i dirigenti del suo partito che hanno osato aprire verso di noi. A questo punto per noi il tempo sta scadendo, delle due l'una: o Bersani accetta di dialogare con noi nell'interesse del paese, oppure bisogna subito tornare al voto. Ecco, secondo per esempio un rappresentante del PD come Beppe Fioroni, prima bisogna pensare all'elezione del capo dello Stato, cioè trovare un nome di convergenza del PD, del PDL e di tutte le forze parlamentari. No, le due cose stanno insieme. Serve un grande accordo che tenga insieme la scelta del capo dello Stato e un accordo di governo. Non è possibile fare una cosa alla volta. Il PD non è affidabile da questo punto di vista, perché già, pur dicendo che voleva dialogare, si è preso le due presidenze delle Camere e ha fatto perdere al Paese 40 giorni. È impensabile che chi ha avuto solo il 29,3% dei voti, lo 0,3 più di noi, pretenda per sé le prime 5 cariche dello Stato e ci voglia ridurre a donatori di sangue su una linea politica che non è condivisa dai 10 milioni di italiani che ci hanno votato. Questo Capezzone. Ci sono novità su Grasso, ve le racconterà il GR. Per quanto mi riguarda, un saluto da Elisabetta Fiorito.